89, senza strofe, senza flow. Entro nel 2009 in questo mondo del hip hop. Con la rabbia in corpo attacco sulla strumentale. Ti seppellisco vivo solo con labiale. La mia famiglia mi vorrebbe diplomato. Con la testa sulle spalle, un obiettivo prefissato. Lavoro fisso e busta paga a fine mese. Ogni giorno per 30 anni lavorare per le spese. Speso che ogni giorno aumentano come nervoso. Che c'ho addosso la stessa vita, stessa amici, stesso posto. Sono arrivato in fondo, mi sono rotto, mi sono rotto, mi sono rotto. Oh, mi sono rotto il cazzo anche delle sbrille. Tutto uguale a 12 anni, limita a chiazzine. È scandalo, se la trovano nel parco morta. Cazzo lo so anch'io col pre per la prima volta. L'ultima inculata d'amore mi brucia ancora. Ho dato l'anima per 19 mesi ora. Il tuo nome crea brividi dentro il mio corpo. E brucia ancora come l'ultima del D.O.G.O. E allora nuovo anno, nuovo mixtape. Nuovo a.k.a. DJ Ponge Replay. Alza sto volume a palla e senti come trema. Come la mano dell'infame che chiude la bandiera.